genti che passeranno. Oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno o mi diranno che bel fior. Questo è il fiore del partigiano, o vela ciao, vela ciao, vela ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore del partigiano.